Davide, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Io vi chiamo adesso praticamente da Treviso e anch'io praticamente in questo momento mi sono messo in moto per autocostruirmi la casa. Non è una questione, diciamo, economica, più che altro è che ho lavorato e lavoro tutt'oggi, ma mi licenzierò fra molto tempo Ma lei dalle cosa mie fa aziende di sulla tedesche. sua professione principale qual è? La mia professione principale è quella di vendere caldaie a biomassa, da bene da Hertz, Beh, però in piuttosto che qualche da maniera Ricordieto. è nel ramo Sì, di assolutamente sì, però impiantistica termoidraulica, un po' se ne intende, assolutamente ecco. sì, È già però qualcosa. un mio carissimo amico che ha lavorato molti anni insieme a me, in Germania un giorno si è trovato dinanzi al fatto di voler costruire in Germania, poi c'è una maniera un po' particolare, ci sono molte associazioni di questo tipo qui. E ha utilizzato un metodo che era tra parentesi rivoluzionario per allora in Italia, facciamo conto che non è ancora Come si neanche chiama? arrivato. È il sistema ISORAST, che praticamente utilizza un sistema che sembra Lego, fatto Sì, è quello che ho detto in prima, l'ho visto, so come sono. Ci sono, diciamo, piccolissimo. delle cassaforme predisposte in cui si mettono questi blocchi, possono essere di vario Esatto. materiale, molte volte legno compresso, molte volte sono laterizi trattati, ma sempre materiale biologicamente accettabile, in cui è relativamente più facile costruirsi una casa. Ma diciamo che il punto di forza che io ho visto in questo, perché come detto ho lavorato tantissimo in Nord Europa, è al di là della qualità che comunque ha uno standard qualitativo straordinario, è il discorso di non avere bisogno del riscaldamento. Perché io costruirò una casa vendendo riscaldamento, tra parentesi, Sì, sono va di case, contro diciamo, con. termoisolante, non so adesso esattamente il termine, Esatto. abbastanza autosufficienti, non sono i pannelli di gesso compresso che molte volte Assolutamente costruiscono le no. nostre case.